L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta, questi sono gli studi di Radio 24. Il numero degli SMS, se volete intervenire, 349-238-6666 oppure via email laltraeuropa@radio24.it. Lo sapete, siamo qui per raccontare l'Europa, cerchiamo di farlo attraverso le storie, attraverso le persone, attraverso nuove sfaccettature, attraverso quello che sta succedendo in vari angoli del nostro continente per capire quelle che possono essere anche le implicazioni o le contaminazioni successive nella nostra nazione. Insomma, anche questo è fare cultura europea. Oggi partiamo dall'Islanda, una nazione che visitiamo spesso, anche se è così piccola, ma è fonte innumerevole di novità, di nuove tendenze e anche di nuove leggi in questo caso. Infatti, proprio dall'Islanda arriva questa legge antibavaglio, così è stata nominata. Si parla tanto di legge e bavaglio in queste settimane. In Italia tutta l'Europa ci guarda. Beh, invece in Islanda sta succedendo il contrario, perché il Parlamento islandese ha dato il via libera alla IMMI, Icelandic Modern Media Initiative, una norma che dovrebbe garantire protezioni giuridiche per chi informa. E il percorso è lungo, si parla di un paio d'anni, però vogliamo capire bene quello che sta accadendo e per farlo abbiamo invitato una giornalista, un autorevole giornalista islandese. Lei conduce un programma quotidiano di approfondimento politico. Diamo il benvenuto a Tora Arnórsdóttir. Ciao Tora. Ciao Federico. Credo di aver errato completamente il tuo cognome e ti do la possibilità di ripeterlo tu in maniera corretta. Qual è? Arnórsdóttir. Vabbè dai, c'eravamo quasi. Tora, so che non sei in redazione ma sei in campagna, vero? È vero, sono in vacanza, camping. In campeggio, quindi non in campagna. Ah sì. Ma attenzione, scusa, poi arriveremo a parlare anche della legge, ma ci racconti com'è un campeggio islandese? Perché noi ci immaginiamo questa nazione completamente desolata, qualche vulcano, qualche geyser ogni tanto, invece si va a campeggiare dove? Sì, ma dappertutto. L'Islanda sarà probabilmente il paese più perfetto per il campeggio. Abbiamo un paesaggio così, cioè, che non si vede in altre parti del mondo, a parte, cioè, e poi addirittura non siamo così tanti, c'è tanto spazio, non c'è migliaia di persone intorno, puoi veramente goderti la natura, tutto quello, quindi... Cioè, l'Islanda è il paese per venire, direi, se vuoi andare in campeggio, stare un po', cioè, ce lo consigli, insomma. Vedere la natura incredibile è qui. Sai che abbiamo già parlato diverse volte. Volevo anche dire, perché adesso siamo a luglio, i notti, cioè, non c'è la notte. Sì, quindi sono giornate lunghissime e anche questo è un vantaggio appunto per chi deve fare vacanza. Ma in effetti ti stavo dicendo, in queste settimane abbiamo parlato con tanti islandesi e la voglia di partire in effetti è tanta. E Tora, tu ti occupi di un programma di approfondimento politico, vero? Sì, è vero. Nella televisione di Stato che si chiama? Che si chiama RUV, R-U-V, che sarebbe la RAI islandese. Quindi insomma sei anche un personaggio pubblico, tu sei famosa? Insomma sì. Allora stai lì, non capiremo niente, però su YouTube abbiamo trovato qualche secondo di Tora in conduzione, è una sorta di Milena Gabanelli anche nell'atteggiamento, ve la voglio fare ascoltare. Atburðarásin var svo hröð að jafnvel þeir sem voru í hringiðunni miðri eru búnir að gleyma mörgu því sem gerðist. Svo það víst líka þannig að menn verða aldrei alveg sammála hver gangur mála var. Hver og einn horfir á málin frá sínum sjónarhóli og út frá sínum hagsmunum. Það gangur... Tora, stavi parlando di banche, vero? Sì, questo pezzetto è da un documentario che ho fatto sulla crisi, all'origine della crisi, 4 puntate. Ma infatti... Lì abbiamo solamente, cioè, 4 ore di documentario e si vuole così tanto più. Ma si vede anche dal volto che hai, tieni un tono molto serio, insomma il tema non poteva che essere in effetti quello della crisi. Sì. È vero. Allora Tora, invece parliamo di questa legge antibavaglio che è stata proposta dal Parlamento islandese, di cosa si tratta? Dunque, è stata approvata una risoluzione parlamentare che ovviamente non sono dei leggi, però è stata approvata da parlamentari di tutti i partiti, anche perché c'è una cosa complicata, si vuole tempo. Il governo dovrà cominciare a cercare la via per rafforzare e consolidare la libertà di espressione, la libertà di parole, tutta la libertà per pubblicazione e la massima protezione dell'origine dell'informazione, quelli che rivelano le cose ai giornalisti. Tora. Quindi i giornalisti e quelli che pubblicano, sia i giornali, sia la TV, la radio, saranno garantiti la massima protezione. Comunque, cioè, non vuol dire che qui i giornalisti, diciamo come in Russia, non siamo stati veramente in pericolo, però si vede che già quel gruppo di magari 20-30 uomini d'affare che portano la maggior responsabilità, sì, della crisi, che hanno rubato le banche dall'interno, eccetera, hanno già cominciato, sapete, a minacciare di intentare causa, di portare i giornalisti in tribunale, eccetera. Io ovviamente non sono neutrale, il mio marito è uno fra questi, fa il giornalista anche lui, è già stato, ha già fatto una causa, sì, intentata causa, per aver rivelato che uno di questi uomini, come aveva fatto sparire dei miliardi di coroni islandesi, e questa è la protezione che dobbiamo avere anche. Però Tora, ti interrompo e torniamo subito da te. L'altra Europa. Questa è l'altra Europa, siamo in diretta su Radio 24 e siamo in diretta anche con Tora Arnórsdóttir, giornalista della TV nazionale islandese, in collegamento da un non ben definito campeggio, ma l'abbiamo disturbata per parlare di questa legge antibavaglio che è stata proposta in Islanda. E Tora, quindi l'avvio di questa procedura, diciamo, non c'entra niente con la legge che è stata proposta in Italia, non è una risposta, è una risposta a quello che sta accadendo e che è accaduto in questi mesi in Islanda. Appunto, qui in Islanda, ma anche internazionale, perché se la legge sarà approvata, bisogna cambiare tipo 13 leggi esistenti e migliorare con 4 ministeri, tutto quello. Per questa complicazione si vuole più o meno un anno almeno per approvare la legge. Però quando sarà approvata, questo apre un'opportunità per giornalisti da altri paesi, anche giornali della radio, che possono spostarsi in Islanda sapendo che avranno la maggior protezione che esiste per i giornalisti. E quindi non è solo per i giornalisti islandesi, ma per tutti quelli che ci sono tanti che lavorano in un ambiente pericoloso. Sappiamo, cioè tutti i giornalisti sanno che dopo la crisi ci sono tante cose da rivelare, da investigare, e ci sono tante persone con potere che non lo vogliono fatto fare. Ma in effetti, insomma, ricadute a livello internazionale, perché diventerà una sorta di isola franca per la libertà di informazioni, si potranno aprire lì siti internet e si potrà essere più difesi e da tantissimi punti di vista. C'è un sito per tutte le informazioni che intanto diamo, che è www.immi.is. Tora, ti ringrazio molto per averci fatto assaggiare questa legge, fatto capire quello che sta succedendo in Islanda. Le tue vacanze saranno ancora lunghe? No, ancora una settimana. Una settimana sempre di campeggio? Sì. Fantastico. Insomma, ti invidiamo. Grazie davvero, buon sabato e buona vacanza. Ciao Tora. Grazie a te. Europost-it. Meno di un mese. E quanto manca all'inizio del più grande festival d'Europa? Lo hanno definito la Woodstock del Danubio. Di sicuro il Szeged Festival è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica. Una 6 giorni a Budapest nella quale si esibiranno artisti come gli Iron Maiden, Muse, Faithless e anche i Subsonica. Il Szeged Festival a Budapest dal 9 al 16 agosto. Programma e informazioni su szegedfestival.it. L'altra Europa. L'altra Europa. Continuiamo a viaggiare per le nazioni europee. Abbiamo scelto una base che ci aiuta a entrare nel clima giusto per affrontare il prossimo argomento. Stiamo infatti andando in Romania per parlare di Dracula e di vampiri. Basta con i vampiri, la Romania dice addio al mito di Dracula, una mostra a Bucarest per ristabilire la verità storica sulle personaggi, quello che sta succedendo nella nazione, una mostra per appunto un po' risollevare l'immagine dello Stato e dire basta con questo mito che sì è vero ci appartiene ma non ci rappresenta. Per capire il perché di questa mostra e per capire e com'è anche, nel senso tenteremo di vederla via radio, abbiamo invitato Giuliana Hangel, giornalista della Radio Romania Internazionale, radio tra l'altro che fa parte della nostra network, quella di Euronet. Ciao Giuliana. Ciao a tutti. Ciao. Da Bucarest. Ecco, infatti, come hai detto anche tu, questa mostra è volta a chiarire un po', no, le differenze, ad allontanare il mito e questa associazione tra Dracula, no? Che in realtà non è esistito, sappiamo che è una pura finzione del romanzo di Bram Stoker, e comunque che si era ispirato al principe Vlad l'Impalatore, il principe della Valachia, noto per la sua crudeltà nel 400. Quindi, appunto, questa mostra fa un percorso. Scusa Giuliana, ti interrompo. Scusami, adesso entreremo anche nella mostra. Ma a voi come popolo rumeno dà fastidio questa associazione al mito di Dracula? Un po' sì, perché innanzitutto non è la verità storica, è sempre la gente associato, non conoscendo giustamente e facendo, come dire, prendendo come realtà solo il romanzo di Bram Stoker, allora non conoscendo la realtà sicuramente questo è una cosa che non direi che dà tanto fastidio, perché alla fine è stato anche un marchio sfruttato. Nel senso che porta tanti turisti, no? Sì, porta tantissimi turisti al bellissimo castello di Bran, che si trova proprio nella provincia di Brașov, nel centro della Transilvania, che non ha però nessun legame con il posto in cui Bram Stoker ha ambientato il suo romanzo, da qualche parte nel nord del paese. Però questo altro castello, il castello di Bran, è un castello trecentesco, ma siccome è appartenuto alla Valachia lungo i secoli, allora è stato scelto, no, per così dire, tra virgolette, per rappresentare, no, per essere collegato al principe e al mito di Dracula. Quindi lì sul posto ovviamente tutti i turisti vanno a vederlo, si comprano i souvenir, no, con Dracula, con tutto quanto, però non è quello, come dire, non è quella la verità, quindi non è quella la verità. Questa mostra, sì, cerca di far luce su questo mito, su questo personaggio. Questa mostra infatti è molto bella, molto interessante, sarà aperta fino al prossimo ottobre al Museo Nazionale d'Arte di Bucarest, e era stata presentata 2 anni fa anche in Austria, a Vienna e Innsbruck, appunto per l'anniversario, per il 111° anniversario dalla pubblicazione del romanzo di Bram Stoker. E questa mostra di Bucarest, ovviamente, oltre a pezzi del patrimonio nazionale del Museo d'Arte della Romania e di altri musei del paese, presenta anche altri pezzi presi in prestito visto da musei di Austria, Ungheria, Germania e Slovenia. Direi che il pezzo centrale, no, il fiore all'occhiello della mostra, è un ritratto del principe Vlad l'Impalatore, che è stato conservato per più di 400 anni al castello Ambras di Innsbruck. Poi giustamente ce ne sono tanti documenti, ritratti, documenti dell'epoca. Molto interessante è un cripto ritratto del principe Vlad l'Impalatore, che raffigura una scena delle passioni di Cristo, proprio la scena in cui Gesù è portato davanti a Ponzio Pilato, e in cui, se guardiamo i tratti di Ponzio Pilato, no, del governatore romano della Giudea, allora ritroviamo i tratti del principe Vlad l'Impalatore, come era raffigurato nell'epoca. Comunque, Giuliana, questo Vlad, ok, non era un vampiro, ma già il fatto che lui era un principe. Era un principe impalatore. Quindi, un principe del 400 che era molto molto crudele nel punire i delinquenti e i criminali, e li faceva impalare. Infatti era molto, si dice proprio che ai suoi tempi, se uno lasciava una borsa con i soldi per le strade, nessuno la toccava per paura di non arrivare ad essere impallato. Ho capito. Quindi lui è rimasto nella come dire, nella mentalità dei romani come un principe molto molto giusto, molto crudele. A volte si dice, vabbè, a volte no, forse servirebbe. Lungo la storia è stato detto, è stato invocato ripetutamente come nel senso di una personalità, di un leader, no, che potrebbe riportare nuovamente quella onestà di una volta. E tra l'altro leggevo tra le varie proposte della mostra, e c'è una cosa che mi ha fatto molto sorridere, perché c'è una zona anche dedicata all'attività dei vampiri durante il giorno. Pensavo dormissero, sì, e invece fanno altro i vampiri durante il giorno. No, sono insomma, è una sezione della mostra, ovviamente presenta il mito del vampirismo, però si tratta piuttosto di documenti, addirittura trattati per curare quello che si chiamava la malattia del vampirismo, no? Ci sono poi anche altri approcci letterari dell'argomento, sono anche alcuni pezzi dal romanzo di Bram Stoker e altri testi letterari che fanno riferimento ai vampiri, no? Firmati persino da Omero, da Ovidio, da Goethe o Byron, e così via. Vorrei ricordare a questo punto che un'altra sezione della mostra segue l'evoluzione della figura di Dracula nel cinema mondiale. Certo, lì insomma le mille versioni di Dracula, immagino. Appunto, sì, tantissimi film, immagini da film, come proprio quello, il primo, no, del 1931 con Bela Lugosi, quello il più famoso, no, proprio la pellicola statunitense Dracula. Poi anche altri, c'è anche una coproduzione Francia-Italia del 1974, Blood for Dracula. Giuliana, Giuliana, i miei complimenti, insomma, hai studiato, ti sei applicata, vedo che la mostra l'hai visitata con attenzione. Ti chiedo invece, prima di salutarci, ci puoi precisare, nel senso che tu sei giornalista di Radio Romania Internazionale, che è una radio romena che va in onda via web e in più lingue, tra le altre anche in italiano, giusto? Allora, Radio Romania Internazionale fa parte della società romena di radiodiffusione, Radio Romania, la radio pubblica di Bucarest, e abbiamo anche questi programmi per l'estero, trasmettiamo in 10 lingue straniere, diamo un ampio spazio anche ai programmi in italiano, forse vorremmo ancora di più, per ora abbiamo solo 3 programmi al giorno, 3 programmi di mezz'ora al giorno, e diamo ovviamente, oltre al presentare le realtà politiche, sociali, economiche, insomma, dalla Romania come fonte diretta di informazione, Allora, diamo ovviamente tanto spazio anche al rapporto tra la Romania e l'Italia, che è un rapporto del tutto particolare. In Italia ce ne sono tantissimi romeni, anche in Romania ce ne sono tantissimi italiani, sono circa 27-28 mila le aziende italiane di Romania. Sì, sì, una fortissima collaborazione. Guarda, noi ti invitiamo ufficialmente, se vieni in Italia passa qui per la radio, che magari ci inventiamo una puntata insieme per parlare di Italia e Romania, ok? Sicuramente, va bene. Sicuramente, va bene. Ciao Giuliana, buon sabato e grazie per averci fatto visitare via radio questa mostra. Grazie, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24 da Radio Romania. Ciao Giuliana, buon sabato. Ciao, altrettanto, grazie. Europost-it. Il cinema fa bene al turismo. Sono in aumento, infatti, vacanze e visite sui set di grandi produzioni cinematografiche. In Gran Bretagna impazzano i tour nel castello di Alnwick, dove è stato girato il film di Harry Potter, o le visite nella regione del Berkshire, set di film come Orgoglio e Pregiudizio e La Duchessa. Un'idea originale quella di scegliere una meta di vacanza ispirandosi proprio al film preferito. Sul sito vacanzacultura.it, nella sezione Luoghi del cinema, ci sono alcuni suggerimenti per chi volesse seguire le orme di James Bond a Londra, visitare le isole greche dove è stato girato il film Mamma Mia o volare a New York sulla scia di Sex and the City. Vacanzacultura.it. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Cerchiamo di raccontarvi l'Europa partendo da altri punti di vista, insomma dare nuove prospettive e anche attraverso le notizie curiose. Stavo leggendo ora su internet, si è parlato tanto dei mondiali, ci sono ancora delle ripercussioni, non c'entra più niente il polpo Paul, ma in questo caso chi c'è andato di mezzo è Paul Vlaar, Don Paul Vlaar, il sacerdote olandese che aveva pregato per la vittoria della nazionale ai mondiali di calcio, aveva celebrato messa con l'abito arancione, l'altare era stato addobbato con tutti i colori arancioni, beh, è stato sospeso per un tempo non ben definito, non è chiaro se appunto non poteva celebrare col vestito arancione o se perché l'Olanda ha perso, quindi insomma il caso è aperto. Ma vogliamo continuare a parlare di notizie particolari raccolte in giro per l'Europa e abbiamo dato il compito a una delle voci, uno dei giornalisti di Radio 24, uno dei più esperti in Europa e anche il conduttore del programma Giovani Talenti. Diamo il benvenuto a Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Federico, buongiorno agli ascoltatori. Buon sabato. Ti abbiamo chiesto di sfogliare qualche quotidiano pescato tra i tanti che escono ogni giorno nel continente europeo alla ricerca di notizie altre, notizie che magari sfuggono anche agli organi maggiori di informazione. Cosa hai trovato per noi? Un po' di cose, un po' di curiosità qua e là, e partiamo magari anche un po' dal tema che mi è, cioè quello della mobilità in Europa, perché ho scoperto attraverso un'indagine Eurobarometro che al momento il 2,3% dei cittadini europei risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio. Il 17% degli europei pensa, secondo Eurobarometro, di andare a lavorare in futuro in un altro Stato membro europeo, e il 48% in tempi di crisi, purtroppo è così, pensa di spostarsi, di lasciare il proprio paese in Europa e andare a vivere e a lavorare in un altro nel caso dovesse perdere il proprio posto di lavoro. Quindi un europeo su due è disposto a lasciare il proprio paese se rimanesse disoccupato. E sempre in tema di disoccupazione, o meglio di mobilità, ho scoperto sull'Irish Times che entro la fine del 2011 120.000 irlandesi lasceranno il proprio paese. Questo lo dice l'Irish Times, nonostante l'Irlanda tutto sommato stia recuperando lentamente, anche un po' più velocemente dell'Italia. Il PIL irlandese crescerà il prossimo anno del 2,75%, però insomma gli irlandesi sono tornati ad emigrare, e anche i polacchi sono tornati ad emigrare. È una discussione, quella dei cervelli in fuga in Polonia, che prosegue dopo insomma l'ondata del 2004 con l'allargamento. Molti polacchi, ricordiamo ancora tutti, no? Il poster dell'idraulico polacco che andava a invadere, certo, la Francia. È un tema aperto, ne parla cafebabel.com. Si teme un possibile secondo esodo dalla Polonia dovuto proprio alla crisi dopo il primo esodo del 2004. Questo si parla infatti in Polonia di lost generation, di generazione persa, anche se Café Babel parla anche del fatto che A Varsavia c'è un'elite di giovani polacchi che hanno vissuto all'estero e che sono tornati nel frattempo in patria e che stanno cercando di cambiare il paese, di proporsi perché, come nuovo. Perché questo è importante, tema che tu tra l'altro tratti spesso anche nei giovani talenti, no? Questa mobilità, questa anche vocazione delle nuove generazioni comunque a muoversi, non solo perché obbligati a cercare lavoro, ma anche perché per desiderio magari di vedere, di formarsi, di crescere e poi perché no rientrare e cercare di fare qualcosa nel proprio paese quando questo è possibile ovviamente. Esatto, rientrare e cambiare meglio il proprio paese è il messaggio che lancio ogni sabato, perché occorre, è giusta una mobilità, anzi è doverosa una mobilità, ma occorre anche poi garantire come sistema paese la possibilità di rientro a quell'elite che è andata all'estero a formarsi. E restiamo però in Polonia perché c'è una notizia curiosa che arriva da Rexpopolita, un quotidiano dal nome impronunciabile di Varsavia, secondo la quale la crisi ha decimato i milionari polacchi. Un milione di zloty in realtà sono 250.000 euro, ecco, è molto meno, però il milionario polacco è stato praticamente decimato dalla crisi e si è ridotto di un quinto la popolazione di milionari polacchi. Quindi rischiamo l'esodo sia dei cervelli in fuga dalla Polonia che degli ex milionari che cercheranno di fare fortuna in altre nazioni. O i capitali degli ex milionari magari sono diventati evasori fiscali loro stessi, insomma il nostro paese ne sa qualcosa. Però invece restando in tema di crisi, notizia curiosa che arriva da un altro quotidiano da nome impronunciabile, la Gazzetta Prawna, polacca anche questa, che dice che Atene, anzi denuncia che Atene, la Grecia, in crisi ha comprato elicotteri e sottomarini, cioè nonostante diciamo il piano di salvataggio da 110 miliardi di euro, il famoso piano di salvataggio per la Grecia, Atene si è comprata un totale di 3,8 miliardi di euro in navi da guerra, elicotteri e sottomarini. Insomma, c'è chi dice che le solite contraddizioni, no, di questo strano sistema, no? Sì, beh, c'è chi dice sia stato uno scambio, cioè i francesi e i tedeschi che li producono hanno detto ti diamo i soldi, però in cambio ci devi comprare diciamo della merce particolare, ecco. Non è chiaro, comunque insomma la cosa ha stato un certo scandalo ovviamente, perché sappiamo tutti i problemi che ha attualmente la Grecia. Ma restiamo in Grecia perché c'è una notizia molto curiosa, un greco di 77 anni, famoso per la sua barba bianca e il suo cappello rosso, è finito ha avuto un rimborso da parte di un'azienda casearia svedese che, pensate, aveva usato la sua faccia come diciamo immagine per un yogurt turco che viene venduto in Svezia. Per farci Babbo Natale dalla descrizione che ci avevi fatto, invece l'hanno usata come icona e lui se n'è accorto. No, un suo amico in Svezia gli ha telefonato e gli ha detto ma guarda, ti ho visto in una pubblicità qui di uno yogurt turco. Ovviamente poi, come si sa, non è che corra buon sangue tra greci e turchi, e sapere per questo greco che in Svezia la sua immagine veniva associata a uno yogurt turco come promozione pubblicitaria non l'ha fatto esattamente stare meglio, e allora gli ha fatto causa per 5 milioni di euro. Lui si chiama Minas Karatsoklis ed ha ottenuto una compensazione di 250.000 euro. Fantastico, spero non in yogurt, no, nel senso in soldi. Sergio, una notizia di chiusura per salutarci? Guarda, due al volo te ne do. La prima è un sondaggio fatto, sapevamo tutti, era il 14 luglio questa settimana, festa nazionale francese, sondaggio shock in Francia. Essere la fierezza, diciamo, di essere francesi, questa era la domanda. Ebbene, rispetto all'anno scorso, 10% in meno di popolazione si sente fiera di essere francese, dall'89 al 79%. Ha fatto un po' preoccupare, probabilmente i piani alti dell'Eliseo, questa notizia. E una cosa così per ridere, se vogliamo, c'è un piano pluriennale di sicurezza su scala europea che prevede una maggiore cooperazione delle forze di polizia. Sapete come l'hanno chiamato? No. Harmony, a noi no. Con la H fa ricordare quella collana di romanzi rosa, no? Invece in Europa questo è il nome di un piano per diciamo di scambio interforze delle polizie europee. Beh, ben augurante. Grazie davvero Sergio, che ora sei in onda oggi con i giovani talenti? Alle 15. Perfetto, ci saremo. Grazie, buon sabato, alla prossima. Anche ciao Sergio. Euro Post-it. La voce del web, i trend di ricerca in Europa. Grazie a una serie di strumenti di analisi, il sito euronews.net riesce a fotografare tendenze e interessi degli europei, monitorando le ricerche che vengono fatte sul web dalla popolazione dei 27 paesi. Ogni settimana viene pubblicato l'elenco delle 10 parole che hanno suscitato picchi di interesse più alti nella rete. Al primo posto della classifica di settimana scorsa c'era ovviamente il Polpo Poll, l'oracolo del mondiale sudafricano. Gli altri risultati su euronews.net nella sezione Trend. L'altra Europa. Parlavamo di milionari in fuga, ci sono anche i talenti in fuga. Si può partire dal Salento, si può raggiungere la Lituania e lì diventare un famosissimo cantautore. Questa in sintesi è la storia di Andrea Zappa che abbiamo qua con noi. Ciao Andrea! Buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Allora, ti dico solo che ho trovato in rete alcuni articoli che parlano di te, un titolo su tutti, Andrea Zappa, il Vasco Rossi dell'Europa dell'Est. Confermi? Vasco Rossi è un onore perché diciamo che è stato sempre il mio cantante italiano preferito, perciò questo titolo diciamo rende orgogliosi. Comunque diciamo che mi fa piacere questa cosa. Ci credo, ma in questo momento dove ti trovi? Adesso sono a Vilnius, nel pieno centro di Vilnius. Città in cui vivi da quanto tempo? Andiamo adesso al settimo anno. Settimo anno, e tuttora campi di questo, nel senso che la tua professione è fare il cantautore in Lituania? Però c'è anche una bella, diciamo, notizia, perché da poco con un carissimo amico con il quale abbiamo intrapreso questa avventura, abbiamo creato un, diciamo, locale notturno che prende il nome dalla nostra regione, cioè Salento. Ah, quindi porti un po' di Salenti in Lituania attraverso questa nuova attività. L'altra Europa. Un viaggio da Lecce a Vilnius, viaggio di sola andata e là, ritrovarsi nella top delle hit parade. Lui è un cantautore, si chiama Andrea Zappa, abita nella capitale Lituania, dove ci stava raccontando, ha appena aperto un locale, ma lì si è inventato cantante. Andrea, tu sei partito, hai fatto questo viaggio già con la chitarra con te o hai scoperto là che sapevi anche cantare e suonare? No, diciamo che io praticamente a Lecce giravo anche karaoke della città e del Salento. C'era da sempre questa grandissima passione per la musica e conosciamo tutti la realtà italiana, a volte chi magari anche pensa di poter fare qualcosa in quell'ambito si scoraggia per quelle tante cose che si sente, insomma il nostro paese è un po' particolare. Un mio amico un giorno mi ha sollecitato a intraprendere questa avventura perché noi eravamo dei semplici viaggiatori, ogni estate prendevamo delle vacanze e abbiamo sempre girato nei paesi dell'est, sì, iniziando dalla Polonia dai primi anni, dal 97 circa, e un bel giorno siamo arrivati qui e preparammo il viaggio, nel viaggio praticamente una mia esibizione in alcuni locali della città di Vilnius che avevamo preventivamente contattato. E accade che in una di quelle serate un produttore mi chiese di intraprendere questa avventura cantando in lingua lituana, però. Che tu non conoscevi, ovviamente. Assolutamente no, tranne le classiche parole che impari sul momento quando arrivi, ma assolutamente no. Quindi hai cantato questo primo pezzo in lituano, sapevi quello che cantavi, perché immagino te l'avessero tradotto, e cos'è successo? Un clamore immediato, sei piaciuto? Il primo brano praticamente si chiamava Mesne Galim, che è una cover di una vecchia canzone lituana che mi fu proposto perché secondo loro sarebbe stato il lancio ideale, era una canzone dedicata ai giovani che hanno sempre voglia di far festa e quest'altro. È successo che questa canzone è subito esplosa e praticamente si è verificato un grandissimo successo, ho iniziato ad andare in tutte le TV, per tutte le radio, eravamo in tutte le top ed è iniziato tutto così, era l'anno 2004. Insomma, questo è l'inizio e la cosa si è evoluta, hai fatto altri pezzi e stai preparando. Si è evoluta, ho fatto due CD praticamente qui e ho iniziato non solo in Lituania, perché oltre al lituano ho iniziato il russo. Certo, poco, visto che avevi imparato così in fretta il lituano, tu hai detto perché non provarci anche col russo, giustamente. Esattamente. E nella vicina Bielorussia, il singolo appunto Amore Ciao in lingua russa ha ottenuto un grandissimo successo, infatti lì adesso è veramente una grande hit, per fortuna, diciamo. Insomma, questa fa sorridere anche questa cosa: a Lecce sei praticamente sconosciuto, ma senza offesa, a Vilnius ti fermano e ti chiedono l'autografo. Questa è la grande contrapposizione, ma è bello, fa parte del nostro continente. Oltre al locale, comunque hai qualche nuova uscita in programma? Questa carriera sta continuando o hai appeso la chitarra al chiodo? Assolutamente no, diciamo che il discorso locale, ma anche altre attività sono comunque collegate al fatto che il periodo che stiamo attraversando di crisi deve creare necessariamente in ognuno di noi uno spirito di invenzione, perché comunque il mercato della Lituania è molto piccolo musicalmente, per questo ho allargato il discorso anche alla Bielorussia, però io starei pensando a qualcosa da portare giù da noi, ma per fare qualcosa da portare giù da noi deve essere qualcosa che faccia una grande notizia, ed è quello che stiamo pensando per poter cercare di fare uno sbarco in patria, okay. Diciamo. Siamo avvisati, però tienici anche informati, insomma, vorremmo seguirti, così vorremmo sapere in anteprima. E un'ultima curiosità: nel tuo locale fai anche il karaoke? Nel nostro locale dalla prossima domenica partirà il karaoke, come nel locale da noi precedentemente gestito, perché come ho detto in precedenza il mio amico che mi ha portato qui è un grandissimo gestore di locali notturni, Piero Buttazzo, mi ha convinto lui a fare questa avventura e adesso siamo ancora qui, il karaoke è presente. Non avevo dubbi, grazie davvero Andrea, salutaci la Lituania, buon sabato. Saluti a voi e a tutta l'Italia. Ciao. Ciao. Europost-it. Fotografare stazioni ferroviarie per raccontare l'integrazione europea. Questo è il tema del concorso fotografico europeo Ferrovie e integrazione, identità e culture di un'Europa multietnica, promosso da Immigrazione Oggi Onlus, Ferrovie dello Stato e da altre 5 reti ferroviarie europee, quelle di Francia, Spagna, Belgio, Lussemburgo e Polonia. Le fotografie devono raccontare l'integrazione in Europa partendo da luoghi di arrivo e partenza, proprio come le stazioni ferroviarie, che sono simboli del processo di integrazione e accoglienza. Per partecipare c'è tempo fino al 30 luglio. Dal 31 luglio al 5 ottobre invece si può votare la propria fotografia preferita. Tutte le informazioni su immigrazioneoggi.it. L'altra Europa. Questi sono i nostri Europost-it e come sempre vi invito a segnalarci se anche voi avete notizie, spunti. Se vi volete proporre potete farlo via email, l'altrolato@radio24.it è l'indirizzo, oppure l'altraeuropa@radio24.it, ho fatto confusione di programmi, oppure via sms al 349-238-6666. Continuiamo a scoprire, a leggere, a vedere le nuove tendenze e andare a capire il polso della situazione anche in nazioni molto molto piccole. Stiamo andando a Malta, dove abbiamo scoperto l'unico stato membro della comunità europea in cui non c'è una legge che permetta di divorziare, però ha ripreso il dibattito proprio in questi giorni, la notizia quindi è assolutamente calda e abbiamo invitato Kurt Sansone, giornalista del Times of Malta. Ciao Kurt, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico. Kurt, scusa, tu sei sposato? Sì, sposato e un figlio anche. Ok, quindi sei particolarmente interessato a questa legge sul divorzio per motivi personali? No, per motivi professionali. No. Per motivi professionali ovviamente, però è un dibattito interessante. Siamo l'unico paese nell'Europa, eccetto il Vaticano, che non ha il divorzio. L'unico fra due paesi, quello l'altro è Filippine, nel mondo che non ha il divorzio come una legge del paese. E come mai? Cioè, culturalmente cosa ha portato al fatto che appunto non ci sia ancora questa legge? Beh, siamo un paese molto cattolico e questo è un fattore, penso, che è molto importante per capire la situazione. I politici pensano che se introducono il divorzio c'è questa questione della Chiesa Cattolica che fa un problema nella nostra società. Ho capito. Ma il paese, l'opinione pubblica è pronta a questa legge? C'è aspettativa? C'è divisione appunto all'interno della nazione? C'è molta divisione. Il paese è spaccato più o meno in due. I sondaggi nei ultimi tempi hanno detto che hanno dato una maggioranza piccola a favore il divorzio, ma c'è questa divisione radicale. Ovviamente ci sono le generazioni più anziane che sono assolutamente contro. Poi ci sono le generazioni più giovani che sono a favore questa legge. Mm-hmm. E c'è anche, insomma, un movimento politico, perché se non erro la proposta è stata fatta da un membro del Partito Nazionalista che sta al governo. Sì, interessante. La settimana scorsa un deputato del Partito Nazionalista che è in governo, il Partito Conservatore Maltese, ha solamente un seggio di maggioranza in Parlamento. Questo deputato ha presentato un disegno di legge privato per l'introduzione del divorzio sul modello irlandese. Ovviamente nessuno dei due partiti in Parlamento aveva nella ultima elezione del 2008 il divorzio nel manifesto elettorale, allora c'è questa problematica, specialmente per il governo che ha una larga maggioranza fra i vostri deputati che sono contro il divorzio. Insomma, ci sarà, credo, ci sarà della discussione, ci sarà del confronto, ci saranno anche delle novità e noi le seguiremo, quindi sicuramente ci ritroveremo in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao Kurt, grazie davvero, ti devo salutare. Ciao, buon sabato, perché vedo già dall'altra parte del vetro Davide Paolini con il Gastronaut, che sarà in onda subito dopo il GR. Un grazie ad Alba Chiara Rondelli, che con me ha scritto il programma, ad Anita Panizza in redazione, a Valeria Bernardi alla parte tecnica. Ci ritrovate in podcast sul sito radio24.it. Sabato prossimo con l'Altra Europa, con noi invece ci ritroveremo domani pomeriggio alle 17 con la prima puntata di Mine Vaganti. Ciao!